ti lascio, paese del cuor, tu sei stato e resti ancor pur amor. Ma lontano, ma sai tu perché, soffro tanto, tutto sei per me. Nostalgia porterò del mio focolar, notte di sognerò solo di tornar. Io ti lascio, paese del cuor, il profumo perderò dei tuoi fior. La mia vita, il mio sole sei tu, non ti scordo, t'amerò di più. Ti lascio, paese del cuor, il profumo perderò dei tuoi fior. La mia vita, il mio sole sei tu, non ti scorderò mai più, non ti scorderò mai più, mai più.